La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto a tutti da Franco D'Assisti, eccoci alla Rosa Purpurea, il momento, l'ora del cinema di Radio 24 nel ricco weekend della nostra emittente. È il momento di parlare di film in sala, di tutto quello che di nuovo arriva nei cinema italiani e di tutto quello che di meglio invece si può vedere a casa in un video, in televisione. Insomma, come sempre un'ora fitta fitta, anche perché è una settimana di grandissima qualità. Il numero di film è abbastanza standard, siamo tra gli 8 e i 9 a seconda delle regioni, ma ce ne sono almeno 4 che sono davvero film che definirei imperdibili, insomma film da vedere. Su questi ci concentreremo anche con molti ospiti, per cui tanta carne al fuoco, subito titoli di testa. Rivive nel volto di Keira Knightley la figura di Anna Karenina, l'immortale eroina letteraria di fine 800 di Leo Tolstoi. La storia del suo amore clandestino con il giovane ufficiale Vronsky, che mette a repentaglio il suo ruolo in società e la getta nel disonore, è ripresa magistralmente da Joe Wright. Grande cinema per gli occhi e per il cuore. Erano personaggi borderline. Poliziotti sopra le righe, ex soldati dalla pistola facile, cowboy in pensione. Ma la loro gangster squad mise fine al dominio criminale di Mickey Cohen nella Los Angeles del dopoguerra. Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte e Sean Penn, protagonisti di un gangster movie che guarda gli intoccabili. Marco Bryan, malato di poliomielite, vive in un polmone d'acciaio. Ma il suo bisogno di sesso si fa sentire. Lo soddisferà grazie a un prete di ampie vedute e a una terapeuta molto particolare. Helen Hunt, William H. Macy e John Hawkes, protagonisti di The Sessions. Ironia e commozione per un film da non perdere. Pinocchio d'artista di Enzo Dalò e Lorenzo Mattotti sbarca al cinema. 80 minuti ipercinetici per raccontare l'immortale storia del burattino che voleva diventare bambino. Con le voci di Rocco Papaleo e Paolo Ruffini e le musiche di Lucio Dalla. È la prima volta che lascio il mio bambino. E così? Voi lasciate vostro figlio e io ritorno dal mio. Sono la contessa Vronskaya. Sono stata a Pietroburgo per il battesimo di una nipotina. Mio figlio maggiore ha sposato la principessa Shirkov. Siete una creatura affascinante, perché non vi conosco? Non sono mai stata molto in società a Mosca. Ma conoscete il mio nome? Ho sentito parlare di voi. Parlare di me, intendete? Ah, l'amore. Era amore? Sempre. I miei figli si vergognavano di me, ma preferisco pentirmi di averlo fatto che di non averlo fatto voi. Abbastanza moderna la filosofia della contessa Vronskaya in viaggio in un treno lanciato nelle nevi verso Mosca, proprio nello stesso scompartimento, guarda il caso, che ci mette lo zampino di Anna Karenina. Lei, moglie del conte Vronsky, la bella Anna, giovane moglie di Karenin, alto funzionario dello zar, si incontrano e si colpiscono. Quasi Anna vede nella contessa qualcosa che lei potrebbe essere, ma cerca di accantonare questa idea, perché Anna Karenina è moglie fedele, è moglie che deve dimostrarsi devota nell'alta società russa di un così importante notabile dello zar. Lo zampino del destino, dicevamo, sì, perché la contessa Vronsky ha un figlio, Alexei, giovane, bello, ufficiale, ben vestito, di buone maniere, ribaldo quanto basta, per far girare prima e perdere poi la testa proprio alla bella Anna. E da quel momento in poi la storia, quella raccontata da Leo Tolstoi in uno dei suoi romanzi più importanti, quello che ha disegnato in Anna Karenina il prototipo di una donna moderna che si ribella pur in mille sofferenze fino all'estremo sacrificio a quella che è la sua condizione sociale, all'impossibilità sostanzialmente di essere se stessa, di amare chi vuole, di uscire dalle convenzioni. Ebbene, questo ritratto è perfettamente ripreso da un regista che si sta dimostrando di maggiore talento ogni film che fa. Parliamo di Joe Wright, Espiazione, il suo film che aveva un po' aperto la strada internazionale, Orgoglio e Pregiudizio, adesso appunto Joe Wright, insomma, firma questo Anna Karenina. È uno che con il materiale in costume, diciamo così, mostra di essere molto molto a suo agio, ma qui, come vedremo, fa molto di più anche a livello di regia. Insomma, gli occhi che si incrociano, gli sguardi che si trovano del giovane Alexei Vronsky e di Anna Karenina significano amore perduto, amore anche impossibile, perché il buon Karenin, il funzionario, è sempre lì alle spalle in questa situazione intorpidita, se vogliamo, a livello emotivo dalle convenzioni sociali. E allora i due si prendono e si lasciano, si promettono e si dissolvono in ogni incontro, che però è sempre una grande fiammata. Questa storia deve finire. Mi fate sentire come se fossi colpevole. Che cosa volete che faccia? Che andiate a Mosca a pregare Kitty di perdonarvi. No, non è questo che volete. Mosca, posso fare anche di meglio. Stasera ho rifiutato una nomina a Tashkent. Posso cambiare idea e non mi rivedrete mai più. Se avete considerazione per me, ridatemi la pace. Non ho pace da dare. Non può esserci pace per noi. Solo miserie. O la felicità più grande. Vostro marito è impossibile. Ha sempre opinioni sbagliate, ma è così eloquente che vince in tutte le discussioni. Prego. Sono venuto per portarti a casa. No, io resto. Rimandami la carrozza. E dunque la storia, chi ha letto il monumentale romanzo di Tolstoi la conosce, chi non la conosce la conoscerà al cinema. Ci interessa focalizzare un attimo sulla regia, dicevamo, di Joe Wright, perché la scelta, la cifra di mettere in scena questa Anna Karenina tutta in un teatro, ovviamente le scene sono aperte, gli spazi sono grandi, le nevi sono candide, però il Trade Union, il punto in cui il treno, le nevi, la Mosca e la San Pietroburgo, gli amori, i balli, i valzer maestosi, c'è un ballo che è a pieno diritto subito nella storia del cinema, diciamo subito dietro quello del Gattopardo per intenderci, ebbene quando tutto si snoda dentro nella trama voluta dal Tolstoi e raccontata da Wright, ecco, siamo sempre dentro e dietro le quinte di un teatro, quasi a dire la finzione che la storia, che la protagonista devono vivere, devono cercare di scardinare nella storia appunto raccontata. Un'Anna Karenina molto diversa da quella che avevamo già visto sullo schermo più e più volte, da Greta Garbo in poi. C'è lo zampino di grandissimo talento di uno sceneggiatore come Tom Stoppard, shakespeariano d'eccellenza, Leone d'Oro a Venezia anche come regista con Rosencrantz e Guildenstern sono morti. C'è un Jude Law straordinariamente in palla nei panni del conte Karenin, cupo, intristito, più vecchio della sua età. C'è la gioia esplosiva di Aaron Johnson nei panni del giovane Alexei. C'è questa situazione eterea, questa quasi impalpabilità dell'Anna Karenina, di una Keira Knightley che non è mai stata così in ruolo come in questo straordinario film. Non perdetelo, Anna Karenina al cinema. Chi ha parlato? Deve essere il vino di ieri sera. Eh sì, perché mi è sembrato di sentire una vocina che... Oh! Ha parlato! Il legno ha parlato. Sei tu che hai parlato? Sì! Ma che ridi, che ridi? Dove si è mai visto un ciocco di legno che ride come un bambino? Un bambino! Da ben più di un secolo questa storia tiene e catalizza l'attenzione del pubblico, dei bambini, e mica solo loro, insomma, di tanti appassionati, di tanti che maniacalmente, come dire, collezionano edizioni di Pinocchio in giro per il mondo. Stiamo parlando di Pinocchio e questo è il film con cui vogliamo aprire la seconda parte del programma, firmato da Enzo Dallò. È un ritorno di uno dei registi di animazione italiana più importanti, e questo è un fattore assoluto, e più interessanti, e questo è un fattore personale che da parecchio tempo, insomma, non vedevamo più, e siamo contentissimi di averlo ritrovato con questa che era una vera e propria sfida, perché insomma fare Pinocchio, fatemi dire, Benigni insegna, non è che sia sempre facile, non è che sia sempre riuscito, se ne sono viste mille e una. In Italia si è visto il Pinocchio, a mio modo di vedere, di riferimento definitivo, che è quello di Comencini televisivo. Allora la sfida di Pinocchio, c'è Disney ovviamente alle spalle, sfida di Pinocchio, sfida molto molto intensa, molto difficile, e Enzo Dallò la vince perché ci dà un Pinocchio molto moderno, molto ipercinetico in 80 minuti e non c'è niente, filologico al massimo rispetto alla storia. Ce lo dà con l'arte vera, con la A maiuscola, di un illustratore straordinario come Lorenzo Mattotti, ce la dà con le musiche di Lucio Dalla, e ho detto tutto, e l'omaggio finale è da pelle d'oca alta così, quindi non andate via dopo i titoli di coda. Che dire, è la rivitalizzazione di un mito, quello del bambino che del burattino che si fece bambino, che ci dà tanti contatti con il nostro presente. È in collegamento con noi Enzo Dalò, che saluto e ringrazio per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Enzo. Ciao a tutti, grazie per i miei complimenti. Ma guarda, assolutamente sentiti, perché era veramente una sfida. Io l'ho guardato, diciamo, dicendo speriamo, perché non è, ripeto, facile sì, trovare sì. La chiave oggi per affrontare per la centesima volta la storia di Pinocchio. Secondo me l'hai trovata. Ecco, ti chiedo questo, proprio dove hai lavorato? Cioè, quando tu ti sei messo di fronte a questo monumento, dove hai cercato di sfrondare per trovare una tua via d'uscita? Secondo me è un libro che va preso con tante molle, non tanto per tutte le trasposizioni già fatte, ma perché è il libro più letto al mondo, cioè se ci abbiamo in mano qualche cosa, il più tradotto, è qualche cosa che ha girato tutto il mondo, e questo significa che ha qualcosa di speciale. E io penso che quel qualcosa di speciale sia proprio la possibilità per un autore di interpretare e di scegliersi un punto di vista dal quale guardare Pinocchio. E da questo punto di vista può uscire fuori una storia rispettosa al 100% rispetto al Collodi, al libro originale, può uscire qualche cosa di mai visto prima. Ecco, questo secondo me è la magia del libro, la magia di Pinocchio. Ecco Enzo, parlami di questi due straordinari collaboratori, da una parte Lorenzo Mattotti, l'altro è Lucio Dalla, insomma, mi sembra che qui si legga anche la voglia di trovare una chiave, anche se vuoi tutta europea, cioè fare l'animazione mettendo insieme anche i talenti importanti, visivi e uditivi, che questo paese e questo continente hanno. Certo, io poi posso dirti la verità, sono un pessimo disegnatore, quindi in realtà sono molto contento di essere un pessimo disegnatore, perché io mi concentro sulla storia, e una volta che finalmente la storia mi convince, la sceneggiatura mi convince, a quel punto io ho capito anche quale sarà la musica e quale sarà il tipo di grafica, perché io credo che la grafica, come anche la musica, sia strettamente legato al tipo di storia che sto cercando di raccontare. Io volevo una cosa originale, volevo qualche cosa che non fosse mai stato visto prima, e per me Lorenzo nell'animazione è questo, è un autore che ha delle radici fortissime italiane e culturali, ma che le ha interpretate e ha costruito un suo stile grafico completamente nuovo e originale. Sul lato musicale Lucio ha lavorato 3 anni, perché io in questo caso invece, io avendo un passato di musicista, so anche come lavorare con i grandi autori e i grandi professionisti come Lucio Dalla e tutta la sua equipe, e abbiamo veramente costruito un mondo musicale partendo anche da Collodi, quindi essendo filologici, oltre non solo originali ma anche filologici, perché siamo partiti dai gusti musicali di Collodi. Collodi era un giornalista che scriveva di musica e di politica, e lui adorava Rossini, e abbiamo ritrovato nella scrittura del libro, e non solo nell'inizio, delle strutture narrative musicali tipiche di Rossini. Grazie Enzo, Pinocchio nei cinema italiani. Grazie a voi. E allora andiamo a giocare, è il momento di giocare, di cominciare a sentire la prima traccia del film misterioso di questa puntata. Aspetta Tito, c'era un accordo, perché fai questa sparata? Ma di quale 10% stai parlando? I costi del trasporto dove li metti? Io ho parecchie spese. Poi prendi il treno se le spese di trasporto sono così forti, per quale motivo sei così avido? Alla merda, tu è la verità. E allora, che film è, di che film si tratta? L'avete già identificato? Scriveteci il titolo, il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere una copia per il sabato e una per la domenica di questo film, di cui più tardi vi proporremo delle altre tracce. Oh, parliamo allora di un'altra delle uscite di questo weekend, anzi due. Siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris! Ciao Franco, buongiorno eccoci. A tutti gli ascoltatori. Eccoci, benvenuto sulla barca anche tu. Allora, cominciamo con The Gambit, anzi Gambit, perché adesso lo scopriamo, sentiamo il trailer. Ti piacerebbe guadagnare 500.000 di sterline? Sì. Magnifico, non sospetterà mai che è un falso. I pagliai di Monet, da anni Chabandar lo sta cercando con grande passione. Pagliai al tramonto. Un curatore d'aste, esperto d'arte, trattato come un impiegatuccio qualsiasi da calpestare da parte da un super miliardario, trova o pensa di aver trovato un dipinto di una rarità totale, di una come dire, quotazione sul mercato altrettanto impressionante, e fa partire sostanzialmente una truffa, un tentativo di truffa, grazie anche a una bella cowboy per fregare il suo principale, diciamo così, e cercare di guadagnarci molti, molti quattrini. Insomma, il classico film sulla truffa, dove al centro c'è il tentativo di raggiro, questo Gambit, diretto da Michael Hoffman, con un cast insomma importante, altisonante: Colin Firth, protagonista principale, Cameron Diaz al suo fianco, Alan Rickman, il super miliardario straordinario, devo dire, anche per il volto, per le espressioni che assume, Stanley Tucci in ruolo più defilato. Insomma, ce n'è di materiale sul piatto, e ce n'è di materiale anche perché alle spalle, in fase di sceneggiatura, ci sono i fratelli Coen. Quindi insomma, questa è la paternità di questo film, di questo Gambit, commedia scoppiettante dal gran ritmo. Boris, però, come ci dicevamo fuori onda oggi preparando la trasmissione, film che forse non convince fino in fondo, cioè mi sembra quasi una come dire, una sceneggiatura acqua e sapone fatta dai fratelli Coen con la mano sinistra e poi non diretta da loro, perché tutto sommato forse non ci credevano fino in fondo. Guarda, mi sembra una fotografia perfetta di quello che dicevo, l'ha fatto con la mano sinistra in una bella grafia, o almeno pulita, prendendo tra l'altro un ottimo punto di partenza, che è il Gambit del 66 con Michael Caine e Shirley MacLaine, anche se poi rispetto a quel modello c'è davvero poco, perché lì era un film brillante sulla truffa e tutto era incentrato sul fascino di Ladro Gentiluomo di Michael Caine e sull'abilità della truffa. In questo invece la truffa è solo un pretesto per scoprire che Cameron Diaz ha di sicuro trovato l'elisir dell'eterna giovinezza, perché invecchia e diventa sempre più bella. Qui sembra voler sfidare insomma ogni legge per dimostrarci che è meglio adesso che 20 anni fa, e Colin Firth dimostra che davvero può fare qualsiasi ruolo, cioè dai single man al discorso del re, fino anche a un goffo e fantoziano Travet dalla plomb inglese, che chiaramente per questo fa ridere ancora di più. Qual è il punto? È che nei vari esercizi di stile che stanno facendo ultimamente i Coen c'è anche questa sceneggiatura, che è una commedia anche un po' dozzinale, diciamolo, al limite del demenziale, che si permette, per far ridere nella parte più divertente del film, che è quella che si svolge all'Hotel Savoy, anche delle soluzioni che francamente, insomma, se le facessero i parenti le condanneremmo. E allora questo è Gambit. Per fortuna mi viene da dire che invece questa settimana esce anche un gioiellino come The Session, di cui sentiamo il trailer. Ti andrebbe che io sentissi la tua confessione? Non una confessione, non ho ancora commesso peccati. Speravo in una soluzione sulla fiducia. Crede che io possa conoscere una donna nel cosiddetto senso biblico? Stiamo parlando di rapporti sessuali. Il mio pene mi parla, padre Brendan. Mi hanno suggerito di lavorare con una terapista sessuale. Pronto, sono Cheryl. Parleremo un po' e quando sarà pronto inizieremo a fare degli esercizi per risvegliare il corpo. Santa madre di Dio. Che cosa sono gli esercizi per risvegliare il corpo? È uno straordinario William H. Macy nei panni di questo sacerdote piuttosto in imbarazzo di fronte a questa pecorella smarrita, ma non troppo. The Sessions è il film di cui vi stiamo parlando, dirige Ben Lewin, tra l'altro affetto da poliomielite, e racconta la storia vera di un giornalista negli anni 80 a Berkeley in California, Mark O'Brien, costretto a vivere nel polmone d'acciaio dalla poliomielite, ma che deve fare i conti con un corpo che gli trasmette desideri sessuali. Allora cerca di soddisfarli, lo farà grazie alle terapie molto speciali di una specialista che ha il volto di Ellen Hunt e anche il corpo straordinario di questa attrice di una bellezza diversa, Oscar 98 Ellen Hunt, lo lo ricorderete, per qualcosa è cambiato, ha anche l'approvazione di questo sacerdote che ha un lato umano straordinario, appunto interpretato da un William H. Macy, lo ricorderete in Fargo, in Collingwood, con i capelli molto lunghi, questa volta che insomma diciamo che spiega e scusa e perdona i suoi peccati. Boris è un film che mi è piaciuto molto, intanto per l'interpretazione dei tre attori, per la sceneggiatura degna del miglior Woody Allen, ma anche perché affronta il tema di un uomo che deve vivere la sua vita su una branda o quando non è nel polmone d'acciaio. Uno straordinario, non l'ho detto, errore, John Hawkes, straordinario nei panni di Mark O'Brien, attore sul quale puntare per il futuro alla grande. E dicevo, lo fa privando di tutta la political correctness e di tutto il buonismo gratuito che in questi casi potrebbe venire fuori da un momento all'altro. Insomma, si racconta la storia come è e non come dovrebbe essere. Assolutamente sì, è veramente un gioiellino ed è aiutato sicuramente dalla patologia che il regista che ho incontrato ha subito, chiaramente, e per fortuna in modo molto minore rispetto al giornalista O'Brien. Trovo che sia quello che dovrebbe essere un film, cioè è commovente, è divertente, è intelligente, è arguto, è ben girato e splendidamente recitato, perché Ellen Hunt ha avuto la nomination all'Oscar come non protagonista, ma davvero si fa fatica a capire perché John Hawkes e William H. Macy non dovrebbero avere lo stesso onore. Come dici tu, non c'è il politicamente corretto, non c'è nemmeno la ricerca esasperata del politicamente scorretto, è perfetto in tutte le sue parti, non pretende tanto, non vuole cercare il film d'autore, e secondo me veramente il salto in avanti lo si ha nella scrittura e nella recitazione di William H. Macy, che con quel prete dà veramente uno spessore unico a The Sessions. Quindi per me è sicuramente il film della settimana. Quando vinceremo, nessuno saprà mai cosa abbiamo fatto. Niente medaglie, niente promozioni. Ma sono qui per dirvi che la morte aspetta l'uomo che esiterà. Al momento il nostro unico vantaggio è che lui non sa chi siamo. Quindi in questa squadra c'è una sola regola da rispettare. Lasciate questi a casa. Qui non stiamo risolvendo un caso. Stiamo andando in guerra. Ed è proprio così, è con questa frase sentenziosa, ma insomma abbastanza vera, che apriamo la terza parte del nostro programma parlando di Gangster Squad, un altro dei film importanti di questa settimana. Qui, ricordiamolo, dirige Ruben Fleischer, nel cast Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, anche qui insomma ce n'è in abbondanza. Los Angeles 1949, un gangster di Brooklyn trasferitosi sulla costa Ovest, interpretato da Sean Penn, Mickey Cohen, di origini ebraiche, sta veramente scalando le graduatorie del crimine, a suon di droga, armi, prostituzione, locali, e soprattutto corrompendo la polizia sino ai suoi alti vertici, tranne Bill Parker, che invece è uno integerrimo, che non ne vuole sapere, e che per cercare di fermare l'ascesa del boss ingaggia una squadra speciale, diciamo così. Lo fa però in incognito, perché se si viene a sapere che questi sono impegnati, presto la corruzione fermerà tutto. Invece, in forma totalmente anonima, avete sentito nella clip, non portarsi dietro il distintivo, si è sempre un po' in incognito, vengono reclutati questi poliziotti borderline, chiamiamoli così, che agiscono con maniere anche molto rudi, ex cowboy, reduci dalla guerra, belli come Ryan Gosling, detective che insomma sanno usare anche le maniere dure. E questa squadra pian pianino riuscirà a entrare soprattutto nelle maglie della impresa criminale di Mickey Cohen e a scardinarla da dentro, diciamo così, cercando di far saltare per aria i suoi affari pian pianino, riuscendo nell'impresa fino a quando non si arriverà a una resa dei conti. Il problema è che invece di mezzo, come spesso accade nei film, ci si mette anche l'amore. L'amore fra chi? Fra Ryan Gosling e la bellissima Emma Stone, che niente meno è che la donna del boss. Sono Jerry. Ciao, Jerry. Hai una bella storia di guerra dietro quell'accendino. Ne ho tante di storie. Mi hanno abbattuto una volta sul Pacifico. Ho passato la notte attaccato all'ala dell'aereo con gli squali che mi sbattevano contro le gambe. Ti tremano già le ginocchia? Non riesco a fermarle. Vediamo, non sei abbastanza grosso per fare lo strozzino. Mi arrendo, parla. Qual è il tuo racket, tesoro? Ma il mio racket è vendere bibbie a domicilio. Non vorrai portarmi via e fare di me una donna onesta, spero. Niente affatto. Speravo solo di portarti a letto. Boris, ci sono enfasi sicuramente, anche un po' di retorica, quella retorica visiva anche tipica di un certo tipo di gangster movie. Mi viene in mente per esempio Gli Intoccabili di De Palma per dare un capostipite a questo gangster squad, forse nella parte conclusiva, negli ultimi 20 minuti, anche un po' troppo, diciamo, in questo senso. Però insomma è un film grande anche proprio come intesa, come ambizioni. È un film classico, una struttura classica, che però riconcilia molto con gli occhi, perché è un film, questo Gangster Squad, che ci ricorda che Hollywood sa ancora fare il cinema, quello con la C maiuscola, quello con le scene in esterni ricostruite. C'è una Chinatown in una delle scene focali del film, straordinaria, con le masse, con appunto la ricostruzione dai costumi ai locali, per esempio dell'epoca dell'immediato dopoguerra. Ricordiamo che è una storia praticamente vera, quella scritta da Paul Lieberman e poi diventata sceneggiatura grazie anche all'ex detective del Los Angeles Police Department, Will Beale. Insomma, un filmone, come si usava a dire una volta. Ma guarda, ammetto che hai ragione su tutto ciò che riguarda la scenografia, diciamo la preparazione del film, la visione del film. Il problema, e qui per una volta siamo in disaccordo, secondo me, è proprio che su questo impianto hollywoodiano grande, ambizioso, ci si mette un regista che a me sembra davvero non sappia dove mettere la macchina da presa, e un cast di attori straordinario che forse tutto è alla sua peggiore interpretazione. Cioè Ryan Gosling perde il suo carisma da criminale bello e dannato, anche se qui è un poliziotto. Poi come tu hai accennato, questi poliziotti usano metodi criminali per fare del bene, e Sean Penn, a mio parere, dopo Milk non ne ha più o meno azzeccata una, e questo Mickey Cohen è la dimostrazione. A meno che non volesse essere, diciamo, la parodia degli Intoccabili o una sorta di gangster scary movie in cui si volesse fare molta ironia, ma spesso sembra involontaria. C'è una scena per esempio di una sparatoria davvero girata, a mio parere, maluccio, e tutte le scene madri hanno questo problema, ed è un peccato perché tu rimani costantemente deluso, almeno secondo me, proprio per quello che dicevi tu, proprio per questo impianto che invece con la sua ambizione e la sua bellezza ti farebbe pensare a tutt'altro. Hanno provato a fare una sorta di Sin City non fumettato e secondo me non ci sono riusciti. Boris, grazie per averci raccontato un po' la tua sui film di questa settimana, che sono tanti e sono interessanti, e ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima. E allora eccoci alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Secondo me ti sei completamente rimbecillito. Ho un messaggio per te e i tuoi amici, ascolta bene. Avete fatto molto male a non sistemarmi definitivamente. Perché? Perché io sono pronto a ricominciare. Vi farò capire una volta per tutte che vuol dire vivere sapendo che uno stronzo può spappolarti il cervello. Avete indovinato di che film si tratta? Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Più tardi avremo l'ultima traccia. È mezzanotte e tutto tace, tutti dormono in pace nei loro bianchi letti. E allora la voce di Alberto Sordi, Alberto il Grande, come recita il titolo di un documentario firmato da Luca e Carlo Verdone, che lo ricorda a 10 anni dalla scomparsa, perché Alberto Sordi se ne andava, ci lasciava nella notte fra il 24 e il 25 febbraio del 2003. Sono passati già sottolineato 100 volte, 10 anni senza cosa, il più grande esempio forse di un italiano sul grande schermo. Mi viene da condensarlo così, Alberto Sordi, perché è al di là dell'attore, è al di là del prototipo, dello stereotipo, è al di là della sua comicità, è al di là della sua grande capacità di istrionica. È stato, ha rappresentato e ha plasmato, ha cambiato il modo di essere degli italiani. Questo è davvero forse la chiave per interpretare Sordi anche 10 anni dopo e per interpretare la sua mancanza. Dicevamo di Alberto in Grande, un documentario che racconta, entra proprio nell'intimità mai vista tra l'altro di Sordi, in casa sua, ce la fa vedere per la prima volta, intervista tanti di quelli che l'hanno conosciuto. Su questo discorso dell'italianità è illuminante il breve parere di Enrico Vanzina. Lui era il modello di un prototipo, i prototipi erano gli italiani e lui è diventato un modello che gli faceva questo prototipo. Ma è stato talmente forte, è stato talmente fantastico, che a un certo punto sono stati gli italiani che hanno cominciato a copiare lui. Verdone è il personaggio giusto per fare un po' da cicerone dentro la vita di Alberto Sordi. Perché? Perché questa era una frequentazione vera dell'infanzia di Carlo Verdone. Dove poteva abitare Alberto Sordi, un grande attore comico, fino al 1958? In una strada che si chiama Via delle Zoccolette, che è tutto un programma. Il destino ha voluto che la mia camera da letto, questo l'ho raccontato tante volte, desse sulla camera da letto di Alberto Sordi, appunto qua, in Via delle Zoccolette. E la camera è quella là, la penultima all'angolo, nella fila di destra, con le persiane aperte. Io là tiravo i sassi, Alberto Sordi, Alberto Sordi, si apriva la finestra centrale, appariva un faccione, te ne vanno via ragazzino, te ne vanno via. È straordinario, insomma, quando si cresce così poi tante cose si spiegano. Interessante anche il parere di Ettore Scola, che lo diresse in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, titolo wertmülleriano potremmo dire. Proprio sulla lavorazione del film in Africa ci dà un altro spaccato della personalità di Sordi. Era diffidente anche a viaggiare, andare in Africa in mezzo ai neri. Per alcuni giorni non ha mangiato nulla, mangiava delle caramelle solo, perché era anche il cestino era dubbioso. Ecco, 10 giorni dopo lui non prese più il cestino, ma mangiava insieme ai neri dal piatto comune, la tapioca, attorcigliata intorno alle gambe piene di bambini neri. E perché un po' era folle, un po' era imprevedibile anche con se stesso. Il film Alberto il Grande sarà distribuito nelle scuole, negli istituti di cultura, forse anche online, insomma sarà una distribuzione massiccia per arrivare soprattutto ai giovanissimi, insomma per insegnargli chi era Alberto Sordi e forse chi erano anche gli italiani. Le celebrazioni per ricordare i 10 anni della scomparsa dell'Albertone Nazionale proseguiranno domenica fino alle 20:30 alla Galleria Sordi. Ci sarà un americano a Roma, verrà proiettato in Galleria Sordi proprio nel centro storico di Roma, e fino al 25 nelle stazioni della metropolitana ci sarà la voce di Sordi in tante sue interviste del passato, che insomma verrà diffusa, sarà un modo così per sentirlo forse ancora vicino. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo arrivati ai consigli per le visioni domestiche, siamo arrivati alle analisi attente dei film in palinsesto la prossima settimana insieme agli amici di Film TV, che ci fanno risparmiare perché i film in TV, quelli che noi vi consigliamo, sono gratis e ci danno consigli sempre di grande, grande qualità. Giulio San Giorgio in collegamento con noi, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, abbiamo come sempre una coppia diversamente interessante, diciamo così, di film. Le nostre scelte cercano di essere sempre abbastanza spaiate, lo facciamo apposta, e cominciamo con l'austero e straordinario bianco e nero, così vicino al clima protestante del film, ma Palma d'Oro al Festival di Cannes 2009, stiamo parlando del Nastro Bianco di Michael Haneke. Sì, martedì su Rai 5 alle 21:15 il Nastro Bianco. Siamo in Germania qualche anno prima della Prima Guerra Mondiale e in un villaggio di campagna si susseguono sevizie, attentati e omicidi. Scoprirne il responsabile è difficile, o forse, più probabilmente, solo un problema di coscienza. Come in Niente da nascondere, Haneke inscena l'incapacità dei genitori e anche degli spettatori di riconoscere i reati dei figli e dunque di accettare quelle che sono le proprie responsabilità. Il Nastro Bianco, che appunto ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, è un saggio devastante sull'autoassoluzione e sulla conservazione del male nel giro di un bianco e nero che è veramente abbacinante. E allora questo è Il Nastro Bianco, film assolutamente da non perdere, in prima serata martedì 26 febbraio alle 21.15 su Rai 5. E invece clima scoppiettante, la storia, quella recente che si fa viva dentro Frost Nixon, il duello, la storia di un'intervista che ha cambiato forse anche la storia, quella con la S maiuscola, dei nostri tempi. Assolutamente, mercoledì su Iris alle 21, siamo nel 1977, 3 anni dopo il Watergate, Nixon ha la possibilità di autoassolversi di fronte al popolo americano, ricostruendo la sua immagine in un'intervista televisiva. Frost, ovvero colui che lo intervisterà, è invece intenzionato a dare a Nixon quel processo a cui è sempre sfuggito. Dal testo teatrale d'esordio di Peter Morgan, che è un habitué della rappresentazione del potere al cinema, con film come The Queen e L'ultimo re di Scozia, il classicissimo Ron Howard gira un piccolo saggio di comunicazione politica da un fatto verissimo, storico appunto. Fino a quel momento non avevo capito quanto fosse potente un primo piano, si dice nel film, e scrutando nell'alchimia della televisione si scopre che un po' di sudore può decidere il destino di una presidenza, e non solo ovviamente in America. Grandissimi interpreti sul ring, tra Martin Sheen nel ruolo di Frost e Frank Langella nei panni di Nixon. Mercoledì 27 febbraio l'appuntamento, lo ricordiamo, alle 21 su Iris. Grazie Giulio, grazie agli amici di FinTV. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora siamo arrivati alla terza traccia del game di oggi, sentiamo. Comunque io sono cambiato ormai. In tanti sarebbero felici di saperlo. Pete? Che cosa possiamo aspettarci dal nuovo Frank White? Beh, voglio diventare sindaco. Beh, dovete riarrotolare un po' il nastro, qualche anno fa, però insomma, grandissimo film, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una copia del Blu-ray per il sabato e per la domenica. 7 giorni fa abbiamo giocato con la grande animazione Disney. Sei d'esempio per tutti noi. Amen. A chi tocca ora? Io credo di non aver mai mangiato un pesce. Oh, è fantastico! I miei complimenti! E allora chissà se si vedrà meglio, se non si perderà Nemo stavolta in Blu-ray, perché questo era il nostro game della scorsa settimana, alla ricerca di Nemo in Blu-ray, appunto in alta definizione, tra i tantissimi che hanno partecipato. I più bravi e veloci sono stati Roberto Di Pietro di Desio, provincia di Milano, e Greta Ardissone di Imperia, che vince di Diano Castello, veramente provincia di Imperia, che vincono appunto il Blu-ray Disney, edizione della quale ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, saluto gli ascoltatori. Sì, grande edizione da parte di Disney, Blu-ray in alta definizione, tra l'altro già pubblicato. Qui la novità dove sta? Ebbene, il fatto che l'opera è stata rieditata stereoscopica, tre dimensioni, uscita nelle sale e arrivata quindi anche in home video, l'edizione 3D che include anche la versione 2D, quindi perfettamente compatibile anche per i sistemi non stereoscopici, è assolutamente strepitosa, da riferimento per le immagini, ad alta risoluzione, le tracce non solo in inglese ma anche in italiano, addirittura 8 canali, ci sono tanti extra per approfondire insomma un po', se vogliamo, i segreti della lavorazione dietro questo bellissimo film in computer grafica, ci sono scene eliminate e una bellissima tavola rotonda con i realizzatori del film. Addirittura il secondo disco con la versione Blu-ray 3D contiene degli acquari virtuali. E allora questo era appunto il nostro game della scorsa settimana. Andiamo alle segnalazioni di questo weekend, perché abbiamo scelto due film, due uscite in un video abbastanza particolari, soprattutto la prima, un triangolo amoroso potremmo dire, che però è anche la storia di un grande uomo di spettacolo come Furio Scarpelli, un film disegnato, questa è un po' la dicitura esatta, e si intitola Tormenti. Dice sei teatrale? Sì, sì, sono teatrale, la mia disperazione è degna di Eschilo, ma vedo che possedere cultura come ne possiedo, da forma nobile al dolore, lo fa più alto e però più lancinante. Squilla, squilla, maledetto, mi sto rovinando per lei. Nella Roma fascista nasce una burrascosa storia d'amore tra l'aspiratrice Eleonora e l'avvocato Rinaldo, invischiato tra le maglie del regime. In seguito la giovane incontrerà Mario, studente antifascista, un amore profondo legato da una segreta corrispondenza e il sogno di una fuga verso una vita migliore, situazione che porterà Rinaldo a perdere ancora di più la testa per Eleonora. Scritto e disegnato da Furio Scarpelli, questo film, in cui compaiono tavole in movimento vivacizzate da voci fuori campo, mette in scena un'impetuosa storia d'amore celebrando il talento di Scarpelli, vignettista satirico negli anni della guerra. Edizione un video da parte di 01 Rai Cinema, solo DVD, di qualità comunque eccellente. Le bellissime tavole di Scarpelli sono restituite con notevole resa d'immagine, supporto di un'unica traccia Dolby Digital due canali, con le voci carismatiche di attori importanti italiani come Alvaro Orvache, Romero Antonutti, Valerio Mastandrea, Zingaretti e anche Elio Pandolfi. Tra gli extra, uno speciale sulla presentazione dell'opera alla Casa del Cinema di Roma, con la presenza di Paolo Virgì ed Ettore Scola, focus sui disegni e interviste ai protagonisti. Andiamo invece a qualcosa che negli anni 90 fece il suo bel scalpore, quantomeno il suo bel parlare di sé. Rob Reiner dirige un film tratto da una pièce teatrale, due militari, un tribunale. Stiamo parlando di Codice d'Onore. Hai mai prestato servizio in un reparto di fanteria? No, signore. Sei mai stato in prima linea? No, signore. Hai mai messo la tua vita nelle mani di qualcun altro? O chiesto a un altro di mettere la sua vita nelle tue? No, signore. Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui, semplice. È tutto chiaro? Sì, signore. È tutto chiaro? Cristallino. Giovane e brillante avvocato della Marina Americana, Daniel Caffi è obbligato a lavorare oltre che con un amico, ma soprattutto con una collega determinata, per giunta maggiore di grado, in merito a un delicato caso di omicidio, risultato di una mortale punizione presso la base statunitense di Guantanamo, inflitta a una recluta dagli scarsi risultati da parte di due commilitoni che rischiano l'ergastolo. Le indagini porteranno il team della difesa a un logorante e pericoloso scontro con i vertici della base militare. Candidato a 4 premi Oscar, questo straordinario film diretto a Rob Reiner con un incredibile Jack Nicholson, ma nel cast ci sono anche Tom Cruise e Demi Moore. Edizione Blu-ray alta definizione da Sony Pictures Home Entertainment, di qualità video veramente eccellente, audio ad alta risoluzione multicanale in italiano, ma anche in spagnolo. Per chi volesse ascoltare l'originale inglese c'è comunque una traccia Dolby Digital più compressa. Come extra documentario sulla lavorazione, un approfondimento allo scoperto della sceneggiatura tratta dalla pièce teatrale e il commento del regista. E allora, questo era Codice d'Onore. A questo punto noi non possiamo fare altro che salutare e ringraziare il nostro Claudio Pofi. Appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora, prima di chiudere, vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Vi ricordo di scrivere quello che volete, ma soprattutto di cliccare mi piace per unirvi alla nostra comunità sempre più numerosa, per i podcast, per le puntate da riascoltare, per i consigli e anche per i vostri pareri, appunto, durante la settimana. È stata anche la piazza virtuale nella quale settimana scorsa abbiamo giocato con un game esclusivo dedicato al ritorno a Milano di Grease, il musical della Compagnia dell'Arancia, che chiude proprio questo weekend. Ancora alcune recite, l'ultima straordinaria domenica sera alle 20, domenica 24 febbraio alle 20, perché è stato un successo clamoroso ed è tutto esaurito. Noi su Facebook abbiamo mandato 6 nostri amici, 3 nostri ascoltatori con accompagnatore e accompagnatrice allo spettacolo. Fabio Di Troia, Marco Martini e Luisa Gianni Trapani hanno vinto il biglietto per la recita delle 20 di domenica sera, appunto, al Teatro della Luna a Milano, il ritorno di Grease. Sapete, ogni tanto ci piace anche giocare con quello che non è cinema, ma che col cinema ha molto molto a che fare. Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Grazie a Giorgio De Luca, che ci ha dato una mano in redazione, a Paolo Corleoni, che ha curato la regia di questa puntata. Un saluto da Franco D'Assisti.